Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati in una nuova puntata di Nessun luogo è lontano. 13:15 minuti in questo esatto istante. Allora iniziamo l'anno nuovo con un nuovo proposito, non prima di avervi portato i saluti che vengono dalla redazione, in particolare Riccardo Poli e Miriam Lucchetti che hanno confezionato con me questa puntata e Pietro Lacorte in regia. Allora, dicevo, iniziamo l'anno con un nuovo proposito, anzi, con un'ammenda e un buon proposito. L'ammenda è, facciamo mea culpa noi giornalisti, noi reporter, cerchiamo di raccontare la realtà al di là degli stereotipi, cerchiamo di fare uno sforzo in più per rompere quelle tesi precostituite e cerchiamo di osservare la complessità della realtà. Evitiamo, insomma, di raccontare le cose da un unico, facile punto di vista. Evitiamo, insomma, quello che la scrittrice nigeriana Chimamanda Adichie chiama il rischio della single story. La single story, lo stereotipo. L'Africa è particolarmente colpita da questo benefico approccio e responsabili siamo proprio noi, i reporter, che girano per l'Africa e la raccontano a volte sempre nello stesso modo. Allora oggi cercheremo di sottolineare le responsabilità di questo racconto un po' falso, un po' incompleto, un po' viziato, insomma, un racconto che non ci piace. La storia singola crea gli stereotipi. Descrivi un popolo in un unico modo e quel popolo diventerà tale. Il problema degli stereotipi non è la loro infondatezza, ma la loro incompletezza. Fanno sì che una singola storia diventi l'unica storia. È ovvio che l'Africa sia un continente pieno di catastrofi, ma ci sono anche altre storie che è necessario raccontare. Gli stereotipi rendono difficile riconoscersi come esseri umani e enfatizzano soltanto quanto siamo diversi e non quanto siamo simili. How we are different rather than how we are similar. Years later, I thought about this when I left Nigeria to go to university. Quando lasciai la Nigeria per andare all'università negli Stati Uniti, iniziai a pensare agli stereotipi. La mia compagna di stanza era scioccata da me. Mi chiese dove avessi imparato a parlare inglese così bene e rimasi confusa perché l'inglese è di fatto la lingua ufficiale del mio paese. Mi chiese se poteva ascoltare quella che chiamava la mia musica tribale. Ero davvero arrabbiata quando le mostrai la mia cassetta di Mariah Carey. Quello che mi colpì fu che si sentiva dispiaciuta per me anche prima di conoscermi. L'unico sentimento che provava per me, un'africana, era una paternalistica e ben intenzionata pietà. La mia compagna di stanza aveva una sola storia sull'Africa, una sola storia di catastrofe. In questa storia non c'era nessuna possibilità per gli africani di essere simili a lei, nessuna possibilità di sentimenti più complessi della pietà, nessuna possibilità di connessioni come esseri umani. Than pity, no possibility of a connection as human equals. I rischi della single story, i rischi dello stereotipo nel raccontare, nel fare la cronaca, nel fare il reporter, in particolare dall'Africa. Di questo parliamo oggi a Nessun luogo lontano. Allora vi ricordo le coordinate per interagire con noi, che sono 349-238-6666 per gli sms, se avete domande, suggestioni o commenti. Poi tenete d'occhio però la pagina Facebook Nessun luogo lontano, perché abbiamo postato parecchie fotografie che commenteremo insieme all'ospite di quest'oggi. Ma torniamo ancora alla single story, nel racconto di questa brillante scrittrice nigeriana, perché lei fa menzione di come nasce la single story. I grew up on a university campus. Sono cresciuta nel campus di un college della Nigeria orientale. Mia madre dice che ho iniziato a leggere a 2 anni. Tuttavia penso che 4 sia l'età che si avvicina di più alla verità. Insomma, sono una lettrice precoce e ciò che leggevo allora erano soprattutto libri per bambini inglesi e americani. Ero anche una scrittrice precoce e quando iniziai a scrivere all'età di 7 anni, storie scritte a matita, illustrate a pastelli che la mia povera madre era costretta a leggere, scrivevo esattamente il tipo di racconti che ero abituata a leggere. Tutti i miei personaggi erano bianchi con gli occhi azzurri, giocavano a palle di neve, mangiavano mele, parlavano molto del tempo, di quanto fosse incantevole il sole che era sbucato dalle nuvole. Scrivevo queste storie nonostante vivessi in Nigeria e non fossi mai uscita dal mio paese, dove non avevamo neve, mangiavamo mango e non parlavavamo del tempo, semplicemente perché non ce n'era bisogno. Tutto ciò dimostra quanto siamo impressionabili e vulnerabili di fronte alle storie, soprattutto da bambini. Solo perché avevo letto libri con personaggi personaggi stranieri, mi ero convinta che tutti i libri, per essere tali, dovessero parlare di persone come loro e raccontare storie in cui personalmente non potevo identificarmi. By their very nature, had to have foreigners in them and had to be about things with which I could not personally identify. E così nasce lo stereotipo, la single story, di cui l'Africa ci porta esempi innumerevoli. 349-238-6666 per i messaggi, la mail è nessunluogo@radio24.it e la pagina Facebook è Nessun Luogo è Lontano. Intanto do il buongiorno a Sandro Iovine, direttore del fotografo e critico fotografico, che è qui con noi in studio. Buongiorno a tutti. Allora Sandro, andiamo dentro al tema, perché un ruolo fondamentale nella costruzione di un'immagine e anche di uno stereotipo ce l'ha l'immagine stessa e quindi la fotografia, e qui entri in gioco tu. Che cos'è la single story? Che cos'è lo stereotipo nella fotografia, in particolare nel fotogiornalismo? Lo stereotipo nella fotografia e nel fotogiornalismo è semplicemente l'applicazione all'immagine di quanto avete appena ascoltato come descrizione, e quindi è il riferire ad una tesi univoca la rappresentazione non solo di un popolo, ma di una serie di popoli, perché qui parliamo in modo generico di un continente intero, sia dell'Africa, che viene, nonostante le enormi differenze che esistono fra le varie aree dal punto di vista culturale ed etnico, nonché storico, viene rappresentato comunque nell'immaginario collettivo, in risposta anzi all'immaginario collettivo, in un modo sempre costante, per cui Africa uguale povertà, disgrazie, appunto, come si diceva, e uomini neri. E proprio rispetto a questo tema c'è un intervento che ormai è uscito su Internazionale, direi almeno un paio d'anni fa, che è di uno scrittore e giornalista keniano che si chiama Binyavanga Wainaina, e è un pezzo interessante, illuminante, che si intitola Come scrivere d'Africa. Nel titolo, racconta Wainaina, usate sempre le parole Africa, nero, safari. Nel sottotitolo inserite termini come Zanzibar, Masai, Zulu, Zambesi, Congo, Nilo, ma anche grande, cielo, ombra, tamburi, sole o antico passato. Altre parole utili sono guerriglia, senza tempo, primordiale e tribale. Mai, e dico mai, mettere in copertina, ma neanche all'interno, la foto di un africano ben vestito e in salute, a meno che quell'africano non abbia vinto un premio Nobel. Usate piuttosto immagini di persone a torso nudo, con costole in evidenza. Se proprio dovete ritrarre un africano, assicuratevi che indossi un abito tipico Masai o Zulu. E poi un altro passaggio interessantissimo è soggetti vietati, scene di vita quotidiana, amore tra africani, riferimenti a scrittori o intellettuali, cenni a bambini scolarizzati che non soffrono di framboesia, ebola o altre malattie, o abbiano subito mutilazioni genitali. Nel libro adottate un tono di voce sommesso e ammiccante con il lettore e un tono triste. Alla era esattamente quello che mi aspettavo. Perché alla fine, Sandro, uno dei grossi problemi nel raccontare e nel fotografare l'Africa è questo. Alla fine si va a raccontare e fotografare esattamente quello che ci aspettavamo. Quindi giustamente dicevi tu, le donne smunte perché si parla della carestia, i bambini soldato, no? Un altro grandissimo paradigma africano. Come si rompe questo meccanismo? Come fa un fotografo ad andare in Africa e decidere di smettere di raccontare quella cosa che è già nelle teste di tutti, che ha già campeggiato sulle copertine dei magazine, e questo fotografo dice, beh, adesso io vado a spostare l'obiettivo su tutta un'altra realtà? Il problema non è tanto che il fotografo sposti il suo obiettivo su tutta un'altra realtà, il problema è che spostino la loro apertura mentale coloro i quali sono responsabili della pubblicazione delle immagini, nonché dei testi. Già nel 1950 Werner Bischoff lamentava che quando un giornale, nello specifico Paris Match, gli commissionava un articolo sulla Cambogia, era già precostituito cosa dovesse fotografare. Loro volevano far vedere i bravi soldati francesi, le condizioni in cui si viveva, il treno blindato che percorreva dei posti inenarrabili e così via. Era una dimostrazione che doveva essere fatta con le immagini di una tesi precostituita, ed è quello che purtroppo si verifica ancora oggi nei nostri giornali, dove spesso succede, parlando con dei professionisti, di sentir dire mi ha contattato il giornale X chiedendomi delle foto su questo argomento, gli mandi le foto e dici ma noi pensavamo fosse diverso, allora no, non va bene. Partire con una tesi precostituita, andare già a cercare quello che si ha già in testa, questo porta a una grande amarezza. Di grande amarezza parla Cossi Komla Ebri, che è un medico e scrittore italiano che di origine africana, di origine togolese, che appunto parla in questi termini delle tesi precostituite. Innanzitutto l'amarezza e di rendersi conto che viene profondamente comunque una ignoranza, nel senso etimologico del termine, una non conoscenza dell'Africa e una non responsabilità. Cioè, io credo che il giornalista dovrebbe avere un'etica di responsabilità, rendersi conto che quello che scrive, quello che la gente legge, nutre l'immaginario delle persone. Questa è la grande sfida nel raccontare l'Africa, no? Andare al di là delle tesi precostituite e andare a indagare la complessità. I fenomeni sono pieni di sfaccettature, sono pieni di tante tonalità di grigio, molto spesso si cerca o il bianco o il nero, molto spesso le hard news, la stretta attualità ci costringe anche a lavorare con tempi molto veloci, quindi c'è anche una limitatezza proprio, no? Pratica, temporale, nell'andare a cercare le sfumature, ma questo è il grande sforzo che si dovrebbe fare sempre. Cossi Komla Ebri, che è appunto medico e scrittore, fra l'altro essendo anche medico, abbiamo chiesto a lui una ricetta in qualche modo per guarire da questa malattia. Come si abbatte lo stereotipo? Innanzitutto una maggiore informazione precisa e poi evitare certi paragoni superficiali. Dire no, io ho visto scritto sui giornali oggi ormai Milano è sporca come l'Africa, quindi l'Africa è legato solo all'immagine della sporchizia. Ci vorrebbe diciamo un'informazione più specifico, dire un africano ha fatto, cioè questo africano innanzitutto ha un nome e un cognome, no? Bisognerebbe far capire, far conoscere di più il cinema africano, le personalità che sono state in Africa, dall'Amical Cabral, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, cioè che l'Africa non è soltanto l'Africa negativa che si conosce. Come si indaga l'Africa? Beh, c'è un approccio che è tutto coloniale, tutto europeo, tutto straniero, che è quello che porta i fotografi a andare in Africa per indagarla, dimenticando che esiste tutta, non solo una letteratura, come stiamo scoprendo, ma anche una scuola di fotografia africana. E se voi, gentili ascoltatori, chi ha la possibilità di accedere alla rete, a Facebook, va a dare un'occhiata nella pagina Nessun Luogo Lontano, abbiamo postato un po' di esempi. Sandro, fra l'altro ci sono alcuni ascoltatori che ci chiedono, ad esempio in particolare Lumi, su un'autrice che è Elena Masù. Un ascoltatore ci chiede appunto lumi in più su questa autrice che fa delle foto incredibili, ritratti evanescenti, quasi di fantasmi, queste foto in bianco e nero con questi visi che sono diafani, che sono appunto trasparenti. Ci può dire qualcosa? Elena Masù è una fotografa togolese che è emigrata per motivi prima di studio e poi presumo di professione, di lavoro, emigrata in Belgio e dà questa sua visione della condizione dello straniero in un paese con una tradizione completamente differente da rispetto a quella del paese di provenienza. La cosa che io trovo interessante è anche il fatto che come si scoprono questi fotografi? Si scoprono andando all'estero, perché in Italia noi non li conosciamo, non ne parliamo. Io personalmente l'ho scoperta andando a Parigi a una manifestazione che è giunta alla terza edizione biennale, che si chiama Photoquay, che si occupa della fotografia non americana e non europea, ossia di tutto il resto del mondo, quella che tendenzialmente non trascuriamo. Qual è il problema? Il problema è che una fotografa come la Masù viene presentata accostandola a una fotografa americana di cui ricalcherebbe le orme, Francesca Woodman. Ora, se è vero da un punto di vista estetico, dal punto di vista dei significati, le cose che raccontano sono completamente diverse. Oltre, fra l'altro, a togliere in qualche modo dignità, no? E indipendenza, perché se continuiamo a dire, beh, quello scrittore africano è come, e citiamo l'esempio americano, questo fotografo è come il belga, insomma, sembrano sempre dei secondo ordine, dei subordine. Nessun luogo è lontano. TV5 Monde, partenaire du 22e Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou, vous offre une programmation exceptionnelle. C'est un moment de rencontre, de partage et d'échange. Ebbene sì, esiste il cinema africano, esiste una fotografia africana, esiste una letteratura africana, guardate un po', però per favore smettiamola di chiamarla arte tribale, fotografia etnica o chissà quale altro epiteto pietistico. E poi ribadisco, che relega in qualche modo una in subordinazione quella che invece è un'espressione artistica autonoma e genuina, quasi come non avesse una sua dignità. Si diceva prima con Sandro Iovine, critico fotografico, direttore del Fotografo, che molto spesso quando c'è un artista africano, un fotografo, lo si accosta a un americano, a un belga, a un europeo. Perché? Perché bisogna dare un riferimento culturale, quasi svilendolo alla fine, no? Ma questa cosa in realtà avviene non solo con i fotografi africani, ma diventa molto più grave se noi lo mettiamo in relazione ai trascorsi storici. Il momento in cui le potenze europee hanno colonizzato l'Africa e non solo, andare a prendere dei riferimenti culturali esclusivamente europei o americani è ben diverso che farlo con degli altri autori americani o europei. E purtroppo i riferimenti invece che vengono fatti a altri fotografi africani sono estremamente rari, anche nell'ambito della manifestazione che citavo prima, il Photoké, che peraltro quest'anno, cioè l'anno scorso nel 2011, era diretta da François Huyghier, che è la persona che ha fondato i Rencontres de Bamako, che non sono nient'altro che un'enorme manifestazione dedicata alla fotografia che clona il modello dei Rencontres di Arles. Il tenore comune nel raccontare l'Africa è o l'allarmismo oppure quel tenero pietismo dove, se ci aggiungiamo un attore famoso, un testimonial che ci parla del progetto per costruire un pozzo, far andare a scuola i bambini e così via, insomma questo è un po' il tenore comune. Che cosa significa? Che c'è fondamentalmente del sano provincialismo, perché questi avvenimenti che noi andiamo a raccontare sono sempre distanti e noi dobbiamo avvicinarli con una figura a noi nota, perché altrimenti non capiamo. Fra l'altro l'Africa è sempre un luogo indistinto, dove non importa se siamo in Niger, in Nigeria, molto spesso si confonde, ad esempio Niger e Nigeria sono la stessa cosa, Senegal, Mali, le savane, le foreste, è un tutt'uno indistinto e che denuncia tutto il nostro provincialismo, come ci ha raccontato Vincenzo Pace, sociologo delle regioni all'Università di Padova. C'è un misto nel racconto dell'Africa, una scarsa attenzione all'Africa da parte dei media italiani, un misto di provincialismo e di memoria corta. Provincialismo perché siamo un po' troppo italocentrici da molto tempo e quindi quando arriva qualcosa dall'Africa è sempre legato a tragedie umanitarie o a conflitti immani o a scontri cosiddetti interetnici e così via. E la memoria corta è il fatto che quando parliamo agli italiani, raccontiamo agli italiani cosa succede in Africa, parliamo come se fossero dei mondi che non avessero avuto rapporti con noi. Sto pensando alla Somalia, all'Eritrea, all'Etiopia e poi anche alla Libia, cioè il nostro passato coloniale è poco conosciuto, è un passato rimosso, per cui non ci chiediamo mai se per caso anche noi abbiamo avuto qualche responsabilità. E le responsabilità ce le abbiamo e come? Un'altra responsabilità è quella di andare poco in Africa a indagarla. Perché? Perché l'Africa è lontana, perché l'Africa è faticosa e perché in un periodo di crisi anche i giornali, insomma, devono stringere i cordoni della borsa, quindi mandare un inviato 2 mesi in Africa a fare l'inchiesta su chissà quale tema diventa costosissimo. Ascoltate ancora Vincenzo Pace. Sull'Africa ormai c'è poco sui giornali perché sono pochi anche gli inviati che vanno sul campo. e le notizie vengono comunque costruite dalle relazioni e dalle agenzie che mandano appunto dispacci sull'Africa, e quindi su questo si costruisce il racconto sull'Africa. Non a caso una delle agenzie che più è più attenta a dare una presentazione più completa dell'Africa sia proprio quella missionaria, la MISNA, e che spesso, se uno vuole leggere qualcosa di più approfondito sull'Africa, deve andare a sfogliare l'Avvenire. Tra colleghi si scherza sempre quando sei in Africa e si dice: o si incontra un fotografo francese o si incontra un prete o un missionario. E come diceva giustamente il sociologo, molto spesso sono loro, i missionari cattolici, che ci informano dei luoghi più sperduti del continente nero. Un luogo invece che è stato, un luogo africano del Nord Africa, che è stato ampiamente indagato è stata la Libia, con il recente conflitto. E lì è accaduto qualcosa che è bene analizzare, lo facciamo con Sandro Iovine, perché sono usciti una serie di stereotipi sul conflitto libico. Fra l'altro, Sandro, noi abbiamo postato sempre sulla pagina Facebook di Nessun Luogo Lontano, e se gli ascoltatori hanno internet a portata di mano è bene che diano un occhio, perché abbiamo riportato questa gallery di questo fotografo Yuri Kozirev, che ha lavorato per il Time, ha seguito un po' tutta la primavera araba, ma ha lavorato particolarmente in Libia, e ha raccontato la Libia in un modo. In che modo, Sandro? Ma la Libia che è stata raccontata da Kozirev è una Libia fatta, come al solito, di stereotipi fotografici meravigliosamente eseguiti e realizzati, ma pur sempre stereotipi, ovvero nello specifico una serie di inquadrature dal basso con sullo sfondo grandi fumate nere che sottintendono incendio, per il principio della significazione, gente ripresa sempre dal basso con le braccia alzate, mitra, cannoni e gente bendata, con ferite alla testa. Ecco, fin qua uno dice: beh, nulla di strano, è quello che è accaduto, no? C'erano persone che facevano il segno V di vittoria, c'erano le bandiere, insomma, io me lo ricordo abbastanza bene, c'erano mitra, c'erano persone con ferite alla testa. Qual è il rischio in questa gallery, in questa serie di immagini? Il rischio in questa tipo di immagini è l'esterizzazione, che è sicuramente a livelli veramente molto alti, da questo punto di vista non c'è niente da dire. Il rischio è che questo lavoro poi è stato premiato con il Visa d'Or pour l'image a Perpignan con il Visa d'Or sono probabilmente la massima interpretazione mondiale del fotogiornalismo, e questo significa avallare ulteriormente questo tipo di lavori. Questo significa assistere durante le proiezioni serali a Perpignan alla stessa foto che passa con tre nomi diversi, ossia c'era una batteria di lanciarazzi a terra che è stata ripresa dalla stessa identica posizione con tre lanci diversi. Probabilmente tra queste foto c'era anche quella di Kozirev, però sono tre foto praticamente uguali, dove la bravura del fotografo la rende un po' più accattivante, ma stanno raccontando sempre la stessa cosa, ovvero tutti raccontiamo sempre la stessa cosa, e non è una novità. Allora, il grande rischio, se ben capisco, è che se accade una cosa, è una cosa particolarmente attraente, particolarmente sexy per un fotografo, e quindi, che ne so, un lanciarazzi che spara una serie di missili Grad su misurata, ad esempio, beh, tutti i fotografi ci si tuffano. E il rischio è che, puntando tutti gli obiettivi su quella batteria lanciarazzi, ci si dimentica di tutto quello che sta attorno. Questo è un vecchio problema. Tra le foto che abbiamo postato sulla pagina Facebook ce ne sono anche due del 1968, che sono una di Don McCallin e l'altra di Gilles Caron, che rappresentano lo stesso personaggio con gli stessi razzi sulla testa che sembrano un'acconciatura e che dovrebbero raccontare entrambe la guerra del Biafra. Ora, questa concentrazione già in sé è sospetta, d'altra parte ci sono anche motivi pratici per cui i giornalisti vengono portati in massa in certi luoghi, quindi la visione è monotematica, ci sono motivi di sicurezza, ci sono motivi appunto di richiesta da parte delle testate. L'unica variabile interessante, secondo me, che si è vista a Perpignan in autunno è stata la visione che ha dato Parimace con le sue mostre con la sua mostra sulla primavera araba, dove peraltro era difficile identificare un nome di fotografo che fosse riferibile al mondo arabo, erano quasi tutti nomi anglosassoni o francesi. E qua veniamo insomma al punto di prima, no? L'Africa che non racconta se stessa, o meglio la racconta, ma noi poi ci dimentichiamo di menzionare che esiste tutta una fotografia araba e una fotografia africana che racconta i fenomeni da dentro. Perché alla fine il pubblico è interessato, è affamato, è assetato della realtà complessa, multisfaccettata, come ci racconta ancora Vincenzo Pace, sociologo delle religioni all'Università di Padova. Io penso di sì, che ci sia un segmento molto consistente, molto serio della popolazione italiana, che fa parte, diciamo, delle due culture ancora vitali di solidarismo anche internazionale, di matrice cattolica, di matrice ma non solo cattolica, anche protestante, evangelica, e di matrice di sinistra, che avrebbe voglia di capire di più, perché magari fa parte di un'associazione, sostiene un progetto di cooperazione, adotta a distanza bambini, cioè vorrebbe che si raccontasse un po' una realtà più dinamica, non appiattita solo sulle storie dei dittatori più o meno strambi, oppure sui conflitti che emergono di tanto in tanto in questo e in quel punto del continente. Rompere la barriera degli stereotipi e andare a raccontare la realtà come dovrebbe essere fatto. Un paio di messaggi al 349-238-6666. Quando un popolo disprezza l'altro è sinonimo di un grande disagio per se stesso. L'Africa è l'anima di chi l'ha persa. Angela da Udine. Poi Pasquale. Anche i cinesi per noi erano solo sottosviluppati una volta, oggi facciamo fatica a capire perché ci hanno sovrastati economicamente e culturalmente. Ma l'altra cosa che continuiamo a dimenticare, che esiste una cultura africana, esiste una cultura cinese che è millenaria, esiste da tempo, poi noi entriamo in contatto e accidenti, la scopriamo come per incanto. Alcuni dei fotografi africani che abbiamo postato, insomma, lavoravano fin dagli anni 60, se non dal periodo coloniale, no Sandro? Cioè esiste una tradizione che poi noi la scopriamo adesso, voglio dire, ben sì, arrivati, ecco. Esiste sicuramente una tradizione e ben arrivati noi. Mi veniva in mente una cosa che apparentemente non è collegata, ma in realtà la dice lunga sul nostro approccio. Io all'università ho studiato scienze politiche con indirizzo internazionale, quindi mi sarei dovuto occupare di queste cose. All'interno del mio corso di laurea c'era una materia facoltativa che era storia di istituzioni dei paesi afroasiatici. Questa materia esisteva da molto tempo nelle università italiane, solo che si chiamava in un altro modo, si chiamava storia del colonialismo. Ora, per quanto il mio docente si sforzasse poi di raccontarci cosa succedeva in Africa, come era fatta l'Africa, alla fine la maggior parte del corso si svolgeva intorno al rapporto tra la Francia e i territoires d'outre-mer. E questo è il grande punto di vista che va cambiato, no? Si diceva all'inizio, l'ottica coloniale, anche culturale, l'ottica di sudditanza. Quando noi osserviamo un artista africano, quando leggiamo un pezzo di uno scrittore africano, c'è sempre questa sudditanza che noi poniamo nel rapporto. È un'ottica che va totalmente ribilanciata per rompere gli stereotipi. E allora, i titoli di coda. Non mi resta che ringraziare Sandro Iovine, direttore del fotografo e critico fotografico, per essere stato con noi. Grazie a tutti. E ringraziare Riccardo Poli e Miriam Lucchetti, che hanno confezionato con me questo programma, e Pietro Lacorte, che le ha dato musica e ritmo. Un saluto da Giampaolo Musumeci, noi ci sentiamo domani 13:15.